Laugh Beach Show. Ciao a tutti e benvenuti nella città di Bologna. Bologna la rossa, Bologna la grassa, Bologna la città dei tortellini, ma non solo. Nella puntata numero 1 di Last Beach Show scopriremo 5 modi diversi di fallire. Fallimento numero 1. Il potere. Una decina di anni fa Bologna era conosciuta perché raccoglieva tutte le menti più calde, più estroverse, più creative dell'Italia, che studiava. Una miriade di locali, di eventi, di performance univano tutti gli abitanti di questa città, e tutto questo accadeva nel centro cittadino. Negli ultimi anni purtroppo si è adottato un principio da parte del potere per delocalizzare tutti i luoghi che erano belli, erano fruibili. Andando in giro a piedi per la città di Bologna si poteva tranquillamente raggiungere un sacco di eventi diversi in luoghi diversi senza prendere l'auto. Ciò ovviamente dava luogo a problemi di ordine pubblico, e il potere, per evitare l'adunata sediziosa, cercò di delocalizzare tutti i luoghi di cultura della città di Bologna. Su tutti, due esempi: il Teatro Occupato ed il Link. Proprio al Link di Bologna aveva sede Radio K Centrale, la radio in cui io lavoravo alla conduzione e alla creazione di numerosi format radiofonici. Questa radio venne costretta a chiudere perché lo stabile ove il Link si trovava fu abbattuto per dare luogo a chissà quale porcheria immonda. Forse un centro commerciale, forse la stazione di una metro mai terminata. Così, mentre il locale Link veniva trasportato in una delle periferie più irraggiungibili della città, Radio K Centrale chiuse e perse quello che era lo scontro storico con un'altra emittente storica cittadina, Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, che ancora sopravvive. Ma la volontà del potere di delocalizzare tutti i luoghi di cultura alternativa del mondo bolognese non teneva conto della capacità di riciclaggio delle persone, della capacità di riciclarsi delle culture del luogo. Così, da un lato, mentre si voleva togliere dal centro storico di Bologna una serie di locali e di luoghi di cultura, altri nuovi luoghi nascevano esattamente laddove il potere pensava di poter vincere la sua battaglia. Parliamo dell'ex mercato ortofrutticolo, del locomotive e anche un po' del livello che mai si piegò a certi condizionamenti. Così la sconfitta di Radio K Centrale coincise inevitabilmente con la sconfitta delle strategie di potere. Così come le culture, nella città di Bologna anche gli artisti possono riciclarsi, soprattutto in caso di fallimento. Fallimento numero 2. Il riciclaggio. Ricordo un giorno, passeggiando per via del Pratello, intravedere un negozio di dischi. Un negozio di dischi che nel giro di un paio d'anni ebbe modo di fallire. Chi era il suo proprietario? Un musicista, un piccolo artista bolognese che non seppe mantenere alto il gettito economico del suo locale. Vuoi per Napster, vuoi per tutti i siti di file sharing con cui si poteva scaricare la musica. Era impossibile vendere molti CD, tanto da mantenersi. incontrai nuovamente il gestore di questo negozio dopo molto tempo, dopo che affidai una cospicua somma ad un amico per fare un deal molto particolare con un pusher brindisino, a lui consigliato proprio dall'ormai ex padrone del negozio di dischi citato in precedenza. Investiti soldi nel suo rappresentante di fiducia, presto si scoprì che questo pusher scappò con tutto il denaro, lasciando me, il mio amico e costui senza il becco di un quattrino e di uno spinello. Di certo questo non stava a significare che costui fosse il miglior affarista del mondo. Incrociai di nuovo questa persona con il suo fido cagnolino e seppi che costui si era già riciclato come musicista di musica elettronica che autoproduceva le proprie basi, presentando dei set musicali, buoni o non buoni, questo non è dato saperlo, con un PC e tanta fantasia. Dopo molti anni venne a sapere che costui ancora non voleva mollare l'osso e continuava a riciclarsi con mille nomi, mille progetti nel underground musicale bolognese, cercando un approdo per soddisfare le sue esigenze di protagonismo, le sue esigenze di soddisfazione professionale. Ma quando le cose non vanno certo benissimo, nonostante la carta di credito di Babbo, è molto facile nel mondo della musica trovare persone che cambiano nome, cambiano identità. E così nacque Trifo, e così nacque Acqua33, e così nacque anche Let Her Drive, un progetto di musica, non ci potevo credere, trip hop, dopo 20 anni che i Massive Attack avevano già sfondato a Bristol. Quindi Bologna come fotocopia della cultura inglese di 20 anni prima. Bologna come capitale del riciclaggio artistico. Forse Matteo Messina Denaro potrebbe spiegare meglio cosa significa costui il riciclaggio. Certo, ci vuole del coraggio e quindi ci ascoltiamo Let Her Drive, The Bravest. Yeah. Let Her Drive, nonostante una miriade di buone recensioni su Indie for Bunnies, Gente Avanti, Il Mucchio, Rock Shock, Beat Magazine, questo disco non è riuscito, The Closer, ad ottenere più di 4.000 ascolti su MySpace, in un mondo bolognese musicale talmente intasato che emergere non è certo facile. Fu così che costui trovò la sua strada, aprendo un magazine online che si chiama Musica Oltranza. Musica Oltranza. Benché inutile, questo magazine risulta molto interessante, proteggendo e lanciando artisti sconosciuti, unendoli in una community ideale con persone che già avevano dimostrato il loro valore. Un po' per non morire, un po' per sentirsi parte del tutto. Fu così che Musica Oltranza, tra tanti artisti, ebbe modo di conoscere e di fare conoscere persino Ra. Fallimento numero 3. L'arte per l'arte. Ra, come artista, nasce a Bologna nel 1999, quando su un vecchio Pentium 2 installa la prima versione di Cool Edit. Da lì inizia a sperimentare sonorità digitali e ascoltare la musica elettronica contemporanea. In questo percorso di ricerca spicca la folgorazione per Aphex Twin. Per molti anni rimane nell'ombra, produce la sua musica in privato e raramente la fa ascoltare ad altri. L'apertura di un account su MySpace segna la nascita di una necessità di apertura al pubblico. Pochi mesi dopo viene contattato dalla net label Musica Oltranza, che distribuisce tramite vari canali, juno.co.uk, Beatport, eccetera, il suo primo lavoro editoriale, Morning Sun. La sua prima esibizione live è del 2007 al Kindergarten di Bologna, dove viene contattato dall'etichetta Cazzuto, che gli fornisce un servizio di booking. Riesce così a suonare in molti locali e centri sociali bolognesi: Arteria, Crash, Ex Mercato, Alto Tasso. Dalla collaborazione di Ra, Colin Arnold e Dario Marino, nel 2008 nasce il progetto Cosmic Expression. Nel 2010 Ra pubblica online il suo nuovo disco La Caduta di Alice. Per conoscerne di più contattate www.myspace.com/rha elettronica. Abbiamo parlato con Ra nel corso di una lunga ed interessante telefonata. Questi sono degli estratti dalla conversazione. Come definisci la tua musica? Che tipo di produzioni crei? Particolare, nel senso che è un suo modo d'essere, seppur spesso spazia tra diversi generi, sonorità e ritmiche. Anche se i pezzi sono molto diversi tra loro, quei pochi che seguono le mie produzioni sono in grado di riconoscerne la firma. Perché non sei famoso? Non sono sicuramente il miglior manager di me stesso. Tengo molto poco alla pubblicità e suono principalmente per un piacere personale. Non per questo si può dire che io sia modesto. Sono invece ben consapevole della portata della mia musica, che reputo di un notevole livello artistico. In effetti non sono neanche troppo interessato a diventare famoso dal punto di vista musicale. D'altronde non è musica di larga diffusione e non mi interessa che lo sia. A me basterebbe un piccolo spazio di nicchia tra gli autori di elettronica europei. Vorrei conoscere l'aneddoto più curioso tra i tuoi live set. Mi ricordo che al primo live set al Kindergarten solo parte del pubblico ha gradito la mia performance, perché la maggior parte di loro erano tavoli e sedie. Però tra i pochi esseri umani presenti devo dire di aver fatto una gran figura. Perché non ti promuovi con costanza? Perché non usi il PC per pubblicizzarti? Mi annoia terribilmente, ma non solo. Io penso che gli addetti ai lavori dovrebbero avere dei talent scout che ascoltino musicisti nuovi e bravi e li spingano sul mercato. In realtà le cose non vanno così. Ormai si scelgono le persone e poi gli si incolla sopra l'arte. Il talento non fa più la differenza e la musica veramente ispirata rimane nell'underground. Cosa ti aspetti dal tuo futuro in ambito musicale? Beh, in effetti le mie aspettative sono alquanto vaghe. Spero di non perdere la mia vena artistica e spero di continuare a produrre cose che mi piacciono. Tutto il resto va bene come viene. Secondo quale prospettiva vivi il tuo indie? realismo, la tua riservatezza nel comporre. Domanda difficile, prova a rispondere in maniera semplice. Fondamentalmente io faccio musica per me stesso, perché mi piace farla, ma soprattutto mi piace ascoltarla. Quindi mi ascolto spesso e volentieri. Non sono riservato, il motivo per cui non mi propongo è forse più legato a una certa forma di orgoglio. Credo molto nelle mie qualità e preferisco produrre nuovi pezzi che correre dietro a etichette e manager. Se dovessi correre dietro alle etichette, rientrerei in quel meccanismo mercificatorio che sta appiattendo la musica in questi anni zero. Hai mai avuto problemi nel relazionarti ad altri musicisti? Litigi, invidia e casini? Mi ricordo che una volta al CSA XM discutevo con un ragazzo su chi dovesse aprire il live. Diciamo che non mi sono messo a fare il difficile e sono andato tranquillamente io per primo. Fin qui va bene, ma non mi andava di discutere su chi era più bravo tra i due. Solo che da metà live set in poi, questo ha iniziato a salire sul palco e a dirmi: guarda, devi chiudere, devo suonare io, scocciandomi in continuazione e facendomi imbestialire. Se aveva tanta fretta di suonare, perché ha insistito a suonare per secondo? Hai molti fan? Ho uno stretto numero di fan, ma molto affezionati. La cosa bella di avere un numero di fan che non supera le dita della mano è che puoi averci un rapporto diretto. La maggior parte hanno il mio indirizzo Messenger e riescono ad ascoltare i pezzi proprio appena composti, anche in corso d'opera. Se devi dare un insegnamento a qualcuno, ora, un consiglio per non diventare famoso, che diresti? Devo proprio consigliare a qualcuno di avere successo? Il consiglio che darei ai musicisti è lo stesso che seguo io: l'arte è più importante del successo. Il successo sparisce e non dà soddisfazione, l'arte rimane dentro per sempre. Meglio stupire una sola persona con un pezzo bellissimo che diventare famosi vendendo merda fritta congelata. E dunque questi era Ra, l'arte per l'arte. Sei sempre all'ascolto di Last Beach Show, puntata numero 1, in giro per la città di Bologna alla scoperta di artisti che, loro malgrado o per loro volere, sono destinati o sono stati condannati a rimanere nell'underground, non visti così quanto avrebbero potuto. La verga viene asportata entro le 24 ore dal decesso a uomini giovani e vigorosi morti prematuramente. Così, tra mille parole e mille racconti, continuiamo la nostra disamina di personaggi all'interno della nostra Bologna violenta. Last Beach, Last Beach. I cinesi di Singapore ci offrono un altro singolare aspetto della guerra che l'umanità ha dichiarato ai bambini. Sarà il più debole e denutrito a soccombere. È già scontato in partenza. Ma questo non importa al pubblico cinese, che segue la lotta senza interesse sportivo, in attesa del grande spettacolo della morte. Purché sia crudele e soprattutto lento. aspetti e le fasi della lotta in attesa di quel gran finale che da secoli manda in sollucero il pubblico cinese, il trionfo della morte. Fallimento numero 4, il fallimento apparente. E ora parleremo della Annie Records. When the things are heap, I abandon ship. L'ascolto di Black Ye con il pezzo New Millennium Lack of Self-Explanation è il modo migliore di avventurarci dentro al mondo della Anip Records. Anip Records che per scelta artistica ed intellettuale non vuole assolutamente andare in quel mondo hype sopra alle righe tipico della musica famosa. Anip Records ha prodotto un sacco di gruppi, un sacco di gruppi italiani e stranieri. Si possono ricordare Tar Water, Yuppie Flu, Isan, Pan American, Tor Kokorot, Phantomas, Melt Banana, Buckminster Fuseboard, La Lipuna, Bomb the Bass e dall'Italia Giardini di Miro, Dream to Me, Death Fan Carina, Disco Drive, Settlefish e molti altri. Tutto nella consapevolezza di non volere sfondare nel mercato. Una scelta discutibile, ma che pone Anip al centro delle nostre attenzioni, del nostro gradimento per quanto riguarda B-side, progetti particolari, progetti paralleli, gruppi emergenti, una realtà sconosciuta ai più in Italia, ma sicuramente delle più piene e pregnanti di stile e di artisticità. La Anip Records è posseduta da Giovanni Gandolfi. Uno dei migliori dischi di Anip Records risale al 2002 ed era la seconda loro produzione. Parlo dello split La Lipuna Isan, con Common Ground per i tedeschi La Lipuna e per Isan Little Boy Sitting Up in Bedroom at the Moon. Noi ci ascoltiamo tutto quanto questo EP, sia il lato A che il lato B. Sunday being born to death, Monday taking a deep breath. get along on Thursday. Friday, exploration. This high end. Saturday is full of love. La Lipuna, Ethan, little boy sitting up in bedroom at the moon, sempre per Anip Records Bologna. Thank you. I abandon ship. E così abbandoniamo questa casa discografica molto stilosa che passa dalla scelta di produrre famosi artisti nell'underground internazionale a artisti italiani, questa scelta di nazionalismo, ma in fondo è più stiloso stare a produrre la TB dei Fantomas, dei Melt Banana, della Lipuna, oppure stare a produrre giovani leve dell'indie italiano. A voi questa ardua scelta, mentre andiamo avanti parlando di un altro modo di fallire nella città di Bologna. Sotto di me la musica Bastiglie di Dominique Vaccaro, artista concreto bolognese, per raccontare una storia alquanto scabrosa. Fallimento numero 5, il fallimento per lesa maestà. La storia che andremo a raccontare ora è una storia di molti anni fa e mi è stata raccontata da un tal Francesco di Terni, che saluto. Francesco fu la persona che mi introdusse nel mondo della radiofonia a Bologna. Era un ragazzo bisessuale, quindi io penso che volesse solo scoparmi, ma non c'è riuscito, e mi ha raccontato una storia assolutamente da non credere, che riguarda il leader di uno dei gruppi appunto prodotti da Anip Records. Un giorno Francesco doveva lasciare la sua casa. Prima di lasciare la sua casa, decise di ospitare quello che sarebbe poi divenuto il nuovo inquilino della abitazione. Questa persona venne ospitata a casa sua per una o due settimane e venne lasciato anche numerosi giorni da solo. Francesco era un grandissimo collezionista di vinile, al tempo in cui i file sharing programs ancora non buttavano e quindi il vinile diventava quasi l'unico modo di recuperare un certo tipo di musica alternativa. Lasciato da solo, questo cantante di questo gruppo bolognese si appropriò di una scatola piena dei dischi di Francesco, dischi rari, dischi introvabili, dischi collezionati lungo numerosi anni di sbattimento e di ricerca. Francesco, senza essere sicuro di questa cosa, si lamentò con il sottoscritto del fatto che gli fossero spariti, proprio nei giorni in cui aveva lasciato questo ospite a casa sua da solo, numerosi vinili preziosi. Dopo qualche giorno, passeggiando per Bologna, decise di entrare nel negozio di dischi ormai defunto più figo della città di Bologna, cioè Underground Records, per vedere qualche nuova uscita oppure qualche offerta. Nel reparto dell'offerta dischi usati trovai un 7 pollici assolutamente introvabile. Parlo del 7 pollici Slip volume 2. Slip volume 2 è un 7 pollici non forse bellissimo, ma molto particolare, in cui da un lato c'era un brano degli Slip, questo gruppo americano di cui parleremo in un'apposita puntata di Last Beat Show in futuro, e dall'altro una canzone dei Black Sabbath. una produzione assai particolare, non commerciale, in tiratura limitata, recuperabile in internet a non meno di 30-40 euro. Casualmente, in quel negozio, questo disco veniva venduto alla modica cifra di 7 euro. Io non ci pensai due volte e me lo accaparrai e andai subito dall'amico Francesco a mostrarglielo. Francesco era l'unica persona a Bologna che possedeva quel disco e si stupì molto di ritrovare tra le mie mani esattamente il suo stesso vinile, lo stesso stato di usura, la stessa gomma appiccicata sulla copertina, la stessa piega sul cartone. Slip volume 2 era uno dei dischi che questo cantante portò via dalla camera di Francesco. Chiedemmo così informazioni al negoziante che mi vendette sotto prezzo un pezzo da collezione del genere. Chi fu mai la persona che portò nel negozio questo disco, che lo vendette per 5 miseri euro? Questa persona era, a detta di Vanni, proprietario di Underground Records, persona che stimo molto, il cantante dei Death of Anna Karina. Death of Anna Karina che poi esplosero nella città di Bologna. Probabilmente non si resero conto del fatto che gli Slip fossero un gruppo di tale valore, che meritassero tanto rispetto e che un disco degli Slip non valesse assolutamente quella cifra. Casualmente l'ospite che venne lasciato solo a casa di Francesco insieme ai suoi vinili era proprio il cantante dei Death of Anna Karina, che ci ascoltiamo con questo pezzo, il pezzo di chiusura di questa trasmissione di Last Beat Show numero 1. Il pezzo si intitola Simon Le Bon. Ciao a tutti.